Roma Trastevere, 14 gennaio 1970. Care Eleuterio, la casa che mi vide rincorrere la palla a rombi colorati, oggi mi vede rincorrere sogni irrealizzati e pieni di amarezza. Il nostro bisticcio dell'altro giorno mi ha lasciato come Nino Benvenuti dopo l'ultimo incontro. Vincitrice, ma pesta. Pesta dentro, Eleuterio. Dalla finestra vedo il campanile della vecchia chiesa con la grossa campana e penso che la campana in fondo non è altro che un battaglio con la minigonna. E penso anche che sei un cretinissimo, Eleuterio, se scateni una lite per una cucchiaiata di ragù. Sempre tua. Roma Parioli, 15 gennaio 1970. Cara semper mia, mi dispiace che la casa che ti vide rincorrere la palla a rombi colorati non ti abbia visto rincorrere a perdifiato un distinto giovane in tight dalla vecchia chiesa sino al confine con la Francia. Se così fosse stato, oggi io sarei un felice scapolo con cittadinanza francese e tu la sposa felice di un qualunque altro povero infelice. Ma non fuggì. Purtroppo sarà anche cretinissimo litigare per una cucchiaiata di ragù, ma il ragù che sta perfettamente bene su fettuccine, gnocchi e agnolotti sta malissimo sulla camicia bianca e ancora peggio sull'occhio sinistro di un distinto professionista come me. Ciao! Ho scritto. Ho finalmente scoperto per quale particolare riesca a non confondere tua madre con il gatto di casa, è per via della coda. Quella del gatto si vede, Eleuterio. Roma Trastevere, 16 gennaio 1970. Care Eleuterio, gattaciucolo, vale a dire gattaccio da non prendere in considerazione perché ucolo. Non so se rendo l'idea, spero di sì. Mammina ha saputo la faccenda della coda e sta dicendo di te quello che molti vorrebbero dire a Luttazzi quando fa lo spiritoso, solo che le dice in chiave Magnani, con apertore pasoliniane. In cielo Eleuterio c'è la luna e io penso che la luna ormai non è che un parcheggio della NASA nel cielo di tutti. Scusami se il ragù è finito sul tuo occhio sinistro. Ho sbagliato, ma non è colpa mia. Eri di profilo? Sempre tua. Roma Parioli, 17 gennaio 1970. Inalterabile sempre mia. Comincio a sentire la tua mancanza. La sera mi manca quel minuto di divertimento che tu provochi da anni, comparendo in pigiama e con il viso unto di crema bianca. Ho cercato di rimpiazzarti scritturando uno dei clowns del circo equestre qui vicino, ma il clown è risultato privo di comicità. Nonostante si sia messo il tuo pigiama e si sia messa la tua crema bianca in faccia, non aveva comicità. Torna. Anche perché qualcuno, non so chi, ha messo in bagno una strana moquette bianca sulla quale si scivola maledettamente. Ciao. Ho scritto. La portinaia interpellata sulla moquette bianca in bagno, dopo un'accurata indagine, ha scoperto non trattarsi di moquette, bensì di talco a tappeto. Eleuterio. Roma Parioli, 18 gennaio 1970. Care Eleuterio, micione, sono di nuovo nella nostra casa che, essendo nostra, è un pochino anche tua per via del mutuo che paghi a nome mio. Ho spazzato via tutte le cicche dal corridoio, dal soggiorno e dalla camera da letto. Quelle del bagno non le ho potute rimuovere per mancanza di pala. In compenso non ho fatto nessuna fatica per pulire i posacenere. Erano puliti? Ho trovato cicche anche nella chitarra classica appesa alla parete del salotto. E penso che una chitarra classica è una chitarra delle zone depresse, ancora in attesa dell'elettrificazione. Tra poco rientrerai e sarà come se io non fossi mai andata via, anche se la nostra ultima lite l'ho chiara in mente, anche i particolari. Era ora di colazione e tu aspettavi che io venissi in tavola con il cibo. Ciao. Insomma, si mangia? Non si mangia perché non è ancora pronto. Se fosse pronto si mangerebbe, ma non può essere sempre pronto quando tu decidi di mangiare. Sono 10 anni che vorrei mangiare alle 2. E sono 10 anni che alle 2 non è pronto. Perché? Eleuterio, non gridare! Non puoi pretendere che una povera donna dall'1:30 alle 2 prepari un pranzo. E perché dall'1:30 alle 2? Perché almeno mezz'ora per fare la spesa ci vuole, dall'1 all'1:30. Ma perché non esci prima, sciagurata? Perché prima devo decidere quello che devo comprare, no? Ma perché io non ho il coraggio di trasformarti in sposa esemplare, da ricordare ogni anno con una messa solenne? Sei sottinteso, Eleuterio? No, c'è il rimpianto. Ho fame. Abbi pazienza. E poi se sapevi di arrivare prima potevi anche telefonare. Ho telefonato, era sempre occupato. Non può essere. Mammina è venuta a trovarmi, ma ha fatto solo 5 telefonate. Mammina, lo sai che non voglio che tua madre usi il telefono. Con gli artigli mi graffia l'apparecchio. Eleuterio, lascia in pace mammina e mangia. Tieni. Che cos'è? 25 grammi di groviera, 100 grammi di carne senza sale, insalata e un grissino. E che ci devo fare con questa roba? Ci devi fare la dieta del fantino. Ma io non sono un fantino. Se lo fossi a quest'ora correrei seduto su tua madre, trainata da un focoso puro sangue. Eleuterio, smettila, hai messo su pancia, perciò devi fare la dieta del fantino. L'ha detto anche la mamma. Si precisa quando parli. Tua madre non dice ulula. Eleuterio, se non la smetti ti tiro il piatto dei gnocchi di patate. Ah, ma allora c'è il primo piatto, da qua. Il primo piatto è per me che non ho la pancia. Se non mi dai quegli gnocchi tra poco non avrai più nemmeno corpo. Non te li posso dare, fanno ingrassare. Sono con il ragù e tanto parmigiano. Se vuoi un sedano crudo... E 2 sedani crudi per poterteli infilare in tutte e 2 gli occhi. Stai calma, Eleuterio, e lascia stare quel piatto, non ti riguarda. C'è dentro la coda la vaccinara per me. La coda? Conto Ugolino alla rovescia, cannibale. Fare la vaccinara a un pezzo di tua madre. Eleuterio, lascia stare mia madre, se no vedi quello che succede. E tu dammi quel piatto di gnocchi, se no spacco tutto. Lascia, mangia il tuo grissino e stai buono. E molla subito quella torta di mele. Fa male al fegato, Eleuterio. Fa male alla testa perché te la tiro. No, buona, Eleuterio, posa quel piatto, altrimenti io buono. Eleuterio, Eleuterio, mi difendo, guarda che mi difendo con il ragù caldo. Ma, oh, l'occhio, oddio, oh, l'occhio. Mi sono difesa, Eleuterio. E torno anche da mia madre perché sei un bruto. Io non voglio vivere con un uomo che tira le torte di mele. Assassino! Ricordo tutto perfettamente, Eleuterio. Ma quando rientrerai ti correrò incontro come se niente fosse accaduto. Ciao. Allora si mangia? Sì, Eleuterio, è pronto. Lattuga all'agro, bieta all'olio e rape bollite senza sale. Oggi farai la dieta dei dissociati.